1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti in punto. Cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Oggi ci occuperemo dell'udienza al Quirinale con i giudici di Palermo che interrogheranno il capo dello Stato. È la prima volta nella storia della Repubblica. Avremo ospite il legale di Totò Riina, che sarà presente all'incontro, all'udienza. Avremo presente l'ex magistrato Antonio Ingroia. Questo alle 8:15. Loro ci saranno, la stampa no, ma non so, non ci sarà la possibilità di registrare, la stampa no, però tutto sarà messo a verbale, quindi tra qualche giorno disponibile, per cui non è un'udienza segreta, è un'udienza pubblica, però la stampa non è stata ammessa. Poi ci occuperemo del caso della iraniana che è stata impiccata perché si è ribellata a una violenza sessuale, e in Iran è stata impiccata domenica scorsa. Dalla comunità internazionale avete sentito grande sdegno, grandi proteste. No, no, è la politica del realismo, bellezza. E ce ne occuperemo dalle 8:30. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 28 ottobre i titoli, il Sole 24 Ore apre ancora sulle banche, borse, banche sotto tiro, Piazza Affari, maglia nera, questo è il titolo di apertura, mentre la guerra senza fine tra i sindacati e Renzi, o meglio tra un sindacato, la CGIL e Renzi, è l'apertura anche per altri giornali, il Corriere della Sera, Renzi e i sindacati, rottura totale, per Repubblica, guerra senza fine, sindacati Renzi, banche, crolla Montepaschi Siena. La stampa, Renzi sindacati, ultimo scontro, mentre il Messaggero manovra verso il sì dell'Unione Europea. Per il Manifesto la foto di Poletti, Del Rio, Padoan, e il titolo è Gli intrattabili. Gli intrattabili. Mentre qua cadono tutti i giornali. Bene, Avvenire, l'Italia, l'Unione Europea, serietà ma basta recessione. Mentre Libero, il titolo è questo, i tagli non ci sono, le tasse sì. E invece Il Giornale mette come apertura le mail segrete dei PM in rivolta contro Renzi. L'unico giornale che apre sulla udienza al Quirinale è Il Fatto Quotidiano, il titolo è Stato Mafia, Napolitano parla nella sala oscura. Questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Voglio però partire proprio da questa notizia. L'approfondiremo alle 8:15, ci sono vari articoli sui giornali, come racconta Lina Palmerini, in prima pagina del Sole 24 Ore, Stato Mafia, il giorno di Napolitano. Lina Palmerini racconta che si partirà dalla lettera del suo ex consigliere giuridico D'Ambrosio, dall'allarme attentati del sismi del 93, sono i due fronti sui quali il capo dello Stato renderà la sua testimonianza ai magistrati di Palermo. Al Quirinale una quarantina i presenti all'udienza, ma è stata esclusa la stampa. Si comincia alle 10, non sarà ammessa la stampa attraverso la diretta video audio. La possibilità non era stata esclusa dalla Corte, che aveva dato il via libera alla presenza da remoto dei cronisti, ma aveva rimesso al Quirinale la scelta. Ed ecco che è stato il Colle, quindi il Quirinale, che ha scelto di tenere fuori taccuini e telecamere, evitare dunque una spettacolarizzazione dell'evento, attenersi alla legge e rispettare le prerogative dell'istituzione Presidenza della Repubblica. Prerogative che peraltro valgono per l'oggi, per Napolitano e per il futuro, per i prossimi presidenti che verranno. Nonostante, faccia notare Lina Palmerini, che l'udienza non è affatto segreta, visto che alla testimonianza saranno presenti una quarantina di persone tra giudici, avvocati, difensori, insomma, parlare di testimonianza a porte chiuse dando l'idea di una segretezza è sbagliato. Tra l'altro la testimonianza del capo dello Stato sarà trascritta e allegata agli atti processuali e dunque disponibile per le parti entro qualche giorno. In sostanza la leggeremo sui giornali nel giro di tre giorni, forse entro la fine settimana. State sereni, cari ascoltatori. E quindi ci si chiede perché la necessità di escludere la stampa. Il giorno delle domande a Napolitano è anche il titolo del Corriere della Sera, pagina 11. Giovanni Bianconi racconta che cosa succederà oggi. Pronti 20 quesiti, il giudice deciderà se sono ammissibili e in qualunque momento il presidente potrà sottrarsi. Di cosa parlerà il legale invece di Rina, che potrà parlare anche lui con il capo dello Stato? Secondo il Corriere della Sera gli chiederà del carcere duro, però lo chiederemo anche a lui alle 8:15, vedremo che cosa ci potrà anticipare. Mentre il Fatto Quotidiano a pagina 2 e 3 si dedica proprio a questo. Il titolo di prima pagina è: Stato Mafia, Napolitano parla nella sala oscura. Oggi al Quirinale il presidente testimonia il processo sulla trattativa e le domande sugli indicibili accordi che gli svelò il suo consigliere Loris D'Ambrosio, e anche sul ruolo di presidente della Camera negli anni delle stragi, quando fu bloccato il decreto sul 41 bis e si parlò di trattative. Tutto questo va in scena oggi alle 10 al Quirinale. Approfondiremo alle 8:15. Intanto, come avete sentito nel giornale radio, c'è preoccupazione, legittima oppure no non lo so, il dato di fatto che preoccupazione c'è per alcuni soldati americani che sono ritornati dalla Liberia. Sono in due delle basi di Vicenza, Ederle e Deldin, e sono tenuti per precauzione, non mostrano alcun sintomo di Ebola, anzi dicono i loro comandanti è quasi impossibile che siano stati contagiati da Ebola. Stiamo tutti benissimo, e che qualcuno di noi abbia contratto il virus di Ebola è una probabilità quasi uguale a zero. Però per precauzione li teniamo separati dagli altri per un tot giorni di cosiddetta quarantena. Tutto ciò però ha allarmato ovviamente gli italiani. Zaia, il governatore della regione, dice: contro Ebola frontiere chiuse, le strutture sanitarie del Veneto sono pronte a ogni evenienza, ma per scongiurare Ebola bisogna chiudere le frontiere. Così Luca Zaia, ne fa una battaglia anche evidentemente leghista. Comunque il Corriere della Sera dedica una pagina, come tutti i giornali, a questo tema: soldati americani in quarantena a Vicenza. Il sindaco Variati dice: per preservare da inutili tensioni sociali una città che ospita da decenni la comunità militare americana, chiedo che non siano diffuse notizie che facciano pensare a casi di Ebola a Vicenza. Tutti sminuiscono, effettivamente casi non ce ne sono, è solo una precauzione. La stampa dice che sono 11 soldati americani isolati a Vicenza, e tra l'altro la stampa racconta anche la storia di un'azienda, è la Technoline, che ha sede a Modena, per la verità Concordia sul Secchia. È la storia, racconta Franco Giubilei, di questa azienda che è riuscita a creare la tenda super tecnologica che permette di trasportare i malati in una situazione di completa sterilizzazione. È un dispositivo realizzato in PVC di spessore da un minimo di 0,30 micron a un massimo di 1,5 mm, composto da una tenda lunga 2 metri e alta 1 metro che si posiziona sopra la barella, munita di 14 bracci in plastica trasparente con guanti di neoprene che consentono ai medici di maneggiare il paziente in sicurezza. È la storia di un'eccellenza italiana, di un'azienda che è stata anche di recente distrutta in parte dal terremoto del 2012, ma che è leader appunto nel comparto biomedicale come tante aziende della zona. E racconta la stampa con Franco Giubilei a pagina 10, è un'azienda che è riuscita a creare questa tenda appunto diffusa in tutto il mondo per trasportare i presunti o i malati di Ebola in sicurezza. Vabbè, mi ha colpito ovviamente molto, come avete sentito anche nelle notizie, la vicenda della condanna in appello per Augusto Minzolini, oggi parlamentare di Forza Italia, ex direttore del Rai 1, di TG1 per la verità, del TG1, che è stato condannato in appello dopo che era stato peraltro assolto invece in primo grado a 2 anni e mezzo più interdizione dei pubblici uffici per la durata della pena. E dunque che vuol dire? Che decade da senatore? Per peculato continuato. La vicenda è quella dell'uso della carta di credito aziendale della RAI fra il 2009 e il 2011, racconta Repubblica. Minzolini condannata a 2 anni e mezzo. Cene da oltre 400 euro e lui non ricorda, così l'avvocato di Viale Mazzini, dunque della RAI, avvocato della RAI che sottolinea tutte le cene erano in ristoranti di lusso con ostriche e vini da 100 euro a bottiglia, menù scelti che presentano per 23 volte il consumo di ostriche, il pasto è accompagnato in 16 occasioni dallo champagne e comunque sempre da vini pregiati. Comunque, assolto dalla Corte dei Conti, assolto in primo grado, assolto dal giudice del lavoro, condannato a 2 anni e 6 mesi, 2 anni e mezzo in appello. E Minzolini dice: dov'è la certezza del diritto in Italia? Comunque la condanna c'è in appello. Ma siamo al momento, mani sul volante, l'articolo che ci mi fa più in... Vabbè, quella roba lì. Quella roba lì. Tenete le mani strette sul volante però, perché quest'articolo fa abbastanza incazzare. Ricordate la vicenda drammatica del 2013, l'incendio a Prato e la morte di diversi operai cinesi tenuti in dormitori con le sbarre? Ebbene, Dario Di Vico racconta oggi a pagina 23 il processo, perché poi ci dimentichiamo delle cose, ma al processo si è presentata Lin Yulan, che è una imputata, e il titolo è questo: i cinesi accusano Prato, tutti sanno dei dormitori, l'imprenditrice sotto processo per i morti, ci pagavo anche le tasse. Ai proprietari del capannone, fratelli Pellegrini, già rinviati a giudizio per omicidio colposo, dice questa imputata, pagavo l'affitto di 2000 euro al mese e venivano a prendere i soldi nella sede della nostra ditta, sapevano tutto, dice l'imprenditrice, che aggiunge: alcuni tecnici comunali avevano fatto nel 2013 misurazioni sui dormitori per calcolare la tassa sui rifiuti. Rispondendo così alle domande del pubblico ministero, Lorenzo Gestri, l'imprenditrice, si assume tutte le responsabilità, ma la sua testimonianza pesa giudiziariamente e politicamente. Cambiavo nome alla ditta ogni anno perché era conveniente, poi a un certo punto abbiamo aggiunto i dormitori, perché tutti facevano così. Ecco, questo articolo che vince il premio Mani sul Volante andrebbe letto e riletto. Altro che dire, i cinesi fanno così, sì, ma dove lo fanno? Dove lo fanno? Anche in Italia. E la gente che fa? Secondo questa imprenditrice cinese, che si assume la responsabilità di quello che per cui è accusata, dice: ma sapevano tutti e ci venivano anche a chiedere con i calcoli la tassa dei rifiuti su quei dormitori con le sbarre. Oh, il pubblico, ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. È arrivato l'arrotino. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli a prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino dell'ombrellaio. Continuare per... Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne, ripariamo cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Che momento se straordinario. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Ti prego, dimmi se che non finisce più. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Vabbè, è finito. È finito, ahimè. Che momento straordinario che ci fa tornare tutti i bambini. Allora, abbiamo risposto all'Unione Europea con questa lettera che... l'Unione Europea, sapete, chiedeva chiarimenti sulla legge di stabilità, e Dino Pesole e Marco Mobili sul Sole 24 Ore pagina 7 raccontano nei dettagli che cosa è stata la risposta del ministro dell'economia Padoan e del governo italiano. E cioè, il governo italiano decide di mettere in campo un pacchetto di misure da 4,5 miliardi che corrispondono a una correzione del deficit strutturale pari allo 0,3% del PIL. E questi 4,5 miliardi ovviamente come li si trova? 3,3 miliardi arriveranno tagliando il fondo taglia tasse, avete capito? Svuotando il fondo che serve per abbassare le tasse. Vabbè. Poi 500 milioni dal taglio della quota nazionale dei fondi europei, 730 milioni dall'estensione del reverse charge. Comunque 4,5 miliardi di misure aggiuntive, Renzi chiosa la questione. Ieri era ospite di Lilli Gruber, che è tornata a condurre 8:30, a dire abbiamo, per noi va bene così. Ecco, bisognerà vedere anche se per l'Europa andrà bene così ugualmente. In ogni caso, il Corriere infatti la mette così come titolo a pagina 3: salta la possibilità di nuovi tagli alle tasse per 3,3 miliardi. Ripeto, per reperire questi 4,5 miliardi promessi all'Europa è stato svuotato il fondo che serve a tagliare le tasse. Vabbè, per 3,3 miliardi. Tra l'altro, sulla questione della manovra e sotto il titolo Malumori, Il Fatto Quotidiano mette questa notizia con Stefano Feltri a pagina 7 e recita così: voci di addio per Franco. Il ragioniere generale dello Stato sarebbe pronto a dimettersi a giorni, giorni di veleni, di voci al Ministero del Tesoro. Secondo Il Fatto, il ragioniere generale dello Stato Daniele Franco avrebbe deciso di dimettersi e l'addio verrebbe sancito il 6 novembre, una volta chiusa la prima parte del negoziato con la Commissione europea. Al momento tutti smentiscono, ma questa notizia viene data con una certa enfasi dal Fatto Quotidiano. Vabbè, ma il punto politico di ieri certamente è l'ennesimo scontro al calor bianco tra Renzi e i sindacati, o meglio il sindacato, la CGIL, Renzi e Camusso. Ieri l'incontro tra alcuni membri del governo e i sindacati, un incontro che è raccontato, ma mi devo piegare un attimo perché Repubblica è caduta, sono tornato. Da Francesco Bei su Repubblica, pagina 2, viene raccontato questo incontro. Anche sentite il clima ieri tra i sindacati e i rappresentanti di governo, ma non c'era Renzi, tanto che la Camusso ha definito surreale questo faccia a faccia. Francesco Bei, pagina 2 di Repubblica: al di là dell'antipatia personale tra Renzi e Camusso, che sicuramente non aiuta, al di là dei singoli punti della manovra, ad aprire una voragine tra il corso attuale di Palazzo Chigi e la CGIL è il proposito politico del Premier, elaborato da tempo, ed è questo: rendere questo sindacato ininfluente rispetto al governo. Ma non tutti i sindacati, ma proprio questo, la CGIL di Camusso. E allora sentite cosa è successo ieri: si trovano faccia a faccia, a un certo punto Poletti, ministro del lavoro, rimprovera la Camusso dicendo: ma com'è che siamo qui in riunione e stanno già uscendo agenzie con le notizie di quello di cui stiamo discutendo? La Camusso lo guarda e lo gela: ministro, non siamo noi a mandare sms ai giornalisti, Renzi non gliel'ha detto che al sindacato usiamo ancora il telefono a gettoni? Ecco, questo è il clima per dire che c'era. Poi Camusso ha definito surreale. A un certo punto Camusso chiede la legge di stabilità da riscrivere, di svolta, da cambiare totalmente. E Padoan fa: ma dove troviamo i soldi, scusi, segretario? Una bella tassa patrimoniale, risponde la Camusso. Sguardi esterrefatti dei ministri presenti all'incontro. Sta di fatto che poi, sempre da Lilli Gruber, Renzi a stretto giro dice: surreale? Surreale pensare di trattare sulla manovra, non tratto coi sindacati. Vogliono trattare? Si facciano eleggere in Parlamento, diventino politici e lì trattiamo, perché le leggi si trattano in Parlamento. Ecco, questo è il clima che c'è tra Camusso e Renzi. Il Corriere: Renzi chiude la porta ai sindacati, non devo trattare le leggi con loro. Mentre come li definisce sul Manifesto, in prima pagina vengono definiti Padoan, Poletti e Del Rio gli intrattabili. Questo è il titolo di prima pagina. A proposito di scontri, racconta il Corriere della Sera in un retroscena, pagina 8, che ieri si sarebbero trovati con una riunione, nervi tesi, la minoranza del PD capitanati da Bersani, poi Visco, Vincenzo Visco, Cuperlo, Fassina, Dattorre, Gualtieri, tutto organizzato in una cena da Chiara Geloni, la nostra amica Chiara Geloni, che spesso ospito alle 6:30. In realtà questo summit sarebbe stato organizzato, dice lei, per la rivista online Idee contro Luce, ma ovviamente tutte le volte che si incontra alcuni della minoranza del PD si pensa a una possibile scissione, anche se su Repubblica Bersani boccia lo strappo. Nella retroscena di Giovanna Casadio dice: la casa in questo momento, non la ditta, non si mette in discussione, non molliamo il PD, la ditta non si abbandona. Ma come andrà a finire. Mauro Meazza sa sempre tutto. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Parliamo un po' piano perché i toni sono un po' da congiura e dobbiamo abbassare i toni? E carbonari sul PD, quello che succede. Non so, perché ieri ad esempio ci siamo visti tu ed io verso l'una, non c'è notizia anche di questo, non vorrei che fossimo anche noi una scissione, a qualche scissione interna sole 24 ore magari. Una congiura di Milan e Meazza, mi sembrerebbe un po' troppo forse, no? Senti, no, stavo leggendo in realtà tutto questo giorno dopo, questo day after, perché oggi voglio parlare anche un po' inglese. Sulle banche, perché insomma non è che i professori siano stati proprio generosi con noi, lo dicevamo già un po' ieri mattina. C'è una bella analisi, ci sono molte analisi interessanti oggi su Sole 24 Ore su questi stress test. Ti segnalo l'analisi di Masciandaro e anche quella della ricostruzione di Moria Longo e Fabio Pavesi, che spiegano che insomma alla fine le banche che fanno più le banche, cioè cercano di prestare soldi all'economia reale, ne sono uscite malino, anche perché la nostra economia reale oggettivamente è più debole di quelle altrui. E però insomma questo qui va a finire che non ci hanno trattato proprio bene, ecco, abbiamo un po' scontato forse anche la nostra cattiva reputazione, e toglierei il forse dalla frase precedente, ma vabbè, tant'è. Volevo parlare un po' inglese perché giovedì partiamo con una nuova iniziativa che si chiama Italy 24, cioè l'Italia raccontata in un quotidiano verticale digitale in inglese ma dal Sole 24 Ore, quindi le vicende italiane cercheremo di raccontarle giovedì. Non so se riusciremo a spiegare pasticcetti come l'IMU o la TASI, ma insomma noi ci proveremo. Per esempio gufo, come si dice? Gufo è all naturalmente, no. Però è più civetta quello. Hai ragione, accidenti, ho sbagliato anche il volatile. Gufo, non lo so, vedi, mi sbagli subito il volatile. E cado anch'io sul volatile. Cadi come sull'uccello. La signora Longa. Certo. Senti, invece stanno cadendo un pochino i francesi sull'EcoMove, perché praticamente un consorzio di aziende italiane, un'azienda italiana, aveva vinto questa gara per l'applicazione di una sorta di telepass con tassa sulle autostrade francesi, però ci sono state le proteste, insomma i francesi non vogliono più questa cosa, però dovrebbero pagare, ma non vogliono pagare. Leggi Marco Mussanè oggi nelle pagine di Finanza, è quasi, vorrei dire, divertente come storia, se non fosse che c'è una vicenda di persone che non vogliono pagare. A proposito di mancati pagamenti, della pagina di Condominio, come ogni martedì, parliamo delle spese di condominio. Tu le paghi le spese di condominio? Sempre, no? Sempre. Ah, ecco, no, non perché tutti i condomini dove abito io, ma io sì, finché però io la faccio. Attenzione, perché poi se c'è qualcuno che subentra, cioè che compra l'immobile, deve stare attento a non accollarsi anche le spese non pagate dal proprietario precedente. Infine una cosa di mobilità, perché ci sono gli ultimi chiarimenti del Ministero sull'utilizzo delle auto aziendali. Obbligo o meno di iscrivere l'utilizzatore per più di 30 giorni sulla carta di circolazione. Tutti i particolari naturalmente su norme e tributi. Certamente. E allora a questo punto, caro Alessandro, traffico. Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione. Sì, vabbè. Allora, torna a parlare Silvio Berlusconi, lo fa in un'intervista al Foglio. Ora vi dico cosa dobbiamo fare e perché. Difende il patto del Nazareno, dice: col presidente del Consiglio ho stretto un patto politico di natura istituzionale, punto. Era mio dovere farlo perché l'Italia ha bisogno di rinnovarsi e ripartire. Anzi, noto in Renzi un registro positivo di cambiamento a sinistra. Lo dimostra il fatto che i nemici irriducibili del patto siano tutti coloro che invece di competere civilmente considerano la politica come una prova di guerra civile e fabbricano arcinemici, quelli cioè del fronte manettaro illiberale dell'anti-berlusconismo che abbiamo visto alla prova in questi 20 anni. Io ovviamente non sono renziano, questo è il succo della caricatura nemmeno troppo divertente che si fa della mia posizione, spero semmai che il più giovane contraente impari qualcosa dall'esperienza l'esperienza del più vecchio contraente, cioè dal sottoscritto. E ancora Berlusconi dice: i nostri critici trascurano un fatto. Renzi ha vinto le primarie e ha preparato la sua ascesa al posto di Letta e ovviamente alla sua autonomia di percorso, ma tutto è stato reso possibile dal patto con l'uomo nero, cioè con lo statista Berlusconi trasformato in Bau Bau per folle fanatizzate. Parla così di se stesso Silvio Berlusconi, che fa anche in questa lunga intervista un accenno alla questione del cambiamento di passo su Unioni Civili e Ius Soli. A chi mi critica per un cedimento identitario dice: non capisco. Nel mondo occidentale si sono diffuse le unioni omosessuali, anche la Chiesa Cattolica ha le sue incertezze e fa le sue riflessioni sinodali, e noi non possiamo attardarci su una posizione nullista di chiusura totale alla questione dei diritti delle persone. Personalmente mi piacerebbe che la cosa fosse risolta con patti privati sanciti dal codice civile più che da norme ad hoc, ma dobbiamo fare i conti con la realtà. Quanto all'integrazione degli stranieri, che deve essere realizzata con educazione, istruzione, coesione culturale e civile, è una necessità della storia. Vogliamo litigare con la storia? Io ho semplicemente proposto in più un esame sulla padronanza della nostra lingua e sulla conoscenza delle nostre regole di convivenza. Così Silvio Berlusconi in un'intervista che trovate in prima pagina sul Foglio. Mentre a proposito di Lega, visto che con la Lega ha litigato per la questione stranieri, oggi il Messaggero ha notizia sulla Lega, Sonia Oranges, pagina 6, che riguarda i conti della Lega. Salvini ieri è arrivato in via Bellerio, sede della Lega, e scrive il Messaggero: bufera in via Bellerio. Cosa ha detto Salvini? In pratica: non ci sono più soldi, devo mettere 70 dipendenti della Lega in cassa integrazione. La Lega ha le casse vuote, cassa integrazione per 70 dipendenti. Non ci sono soldi, bisogna ridurre le spese. Così il segretario della Lega racconta il Messaggero, ovviamente scompiglio alla sede della Lega. Noi ci occuperemo della vicenda di Rayhaneh Jabbari, ne avete sentito parlare forse pochissimo. Donna iraniana, 26 anni, accusata quando ne aveva 19 di avere ucciso una persona, lei dice: mi difendevo da uno stupro. È stata impiccata a Teheran. Ieri l'ultimo affronto si è venuto a sapere perché il suo desiderio era di donare gli organi, ma le autorità iraniane hanno impedito che la donna potesse donare gli organi. Impiccata, tra l'altro, senza neanche avvertire la madre. L'ultimo sfregio a Rayhaneh, e questo è il titolo del Corriere della Sera, a pagina 15. Ne parleremo alle 8.30 perché vorremmo raccontare anche come bisogna comportarsi in questi casi di fronte a violazioni palesi dei diritti umani. Io non ho visto grandi manifestazioni anti-iraniane e la politica del pragmatismo ha trionfato su tutto. Tra l'altro mi ha colpito, Repubblica fa una pagina intera giustamente, la vicenda di un prigioniero, John Kentley, ne avete sentito parlare, è questo britannico che viene tenuto da mesi in mano dagli sgherri dello Stato Islamico in Siria. Ieri è apparso a Kobane in un surreale, incredibile, finto ovviamente, obbligato reportage nel quale lui, con barba e baffi da salafita, fanno notare tutti, da giornalista inglese, fa un servizio inneggiante la vittoria dello Stato Islamico a Kobane. Come scrive Vittorio Zucconi, un serial TV del terrore, una grottesca mascherata sotto l'incubo della lama, costretto addirittura a fare, e lo vedete su internet, sembra un inviato della BBC, che in maniera precisa fa un resoconto, chiaramente tutto sotto la minaccia di morte. Cosa trovate ancora sui giornali? Beh, ha fatto scalpore in Francia il ministro della cultura. Ma cosa ha combinato? Il ministro della cultura, Fleur Pellerin, che ha detto: da 2 anni non leggo un libro. Da ministro della cultura in Francia. Come scrive Piero Degli Antoni, dedica una pagina sul Quotidiano Nazionale a questa vicenda. Che pensereste se l'allenatore della Nazionale dichiarasse di non aver visto una partita di calcio negli ultimi 2 anni? O se Valentino Rossi ammettesse di essere salito per l'ultima volta su una moto 2 anni fa? E così il ministro della cultura, in un'intervista a Canal Plus, gli chiedevano un giudizio sul premio Nobel per la letteratura Patrick Modiano, tipo: quali libri ha letto di Modiano? E lei è rimasta imbarazzata, non sapeva manco il titolo dell'ultimo libro, al che le hanno detto: ma scusi, e lei fa: ma guardi, ammetto che è 2 anni che non leggo un libro. Ministro alla cultura in Francia, non leggo un libro da 2 anni. Così anche su Repubblica. E vabbè, si è guadagnata a suo malgrado un quarto d'ora di popolarità, ma siamo al momento conclusivo. Quello della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Io non ci volevo credere, amica mia Eleonora Barbieri. Ti mandiamo un abbraccio, ti mando un abbraccio, ma una pagina intera sul giornale, sull'ora legale. Perché quando scatta l'ora legale siamo tutti meno solari. Cioè c'è un sondaggio secondo il quale l'indice I Happy, che misura gli umori su Twitter, dice che siamo infelici quando scatta l'ora legale. Siamo tutti un po' così. E allora c'è il dibattito: abolirla? Raddoppiarla? Ma chi se ne frega!